lingua di fuori, muove la coda, alza la zampa e fa pipì. Lingua di fuori, muove la coda, alza la zampa e fa pipì. Bau bau bau bau bau bau bau. Bau bau bau bau bau bau bau. Il cane abbaia quando fa bau bau. Alza la zampa per fare pipì. Agita la coda per dire di fuori, muove la coda, alza la zampa e fa pipì. Lingua di fuori, muove la coda, alza la zampa e fa pipì. Lingua di fuori, muove la coda, alza la zampa e fa pipì.